Mix 24 di Giovanni Minoli. Think about the generations and say we want to make it a better place for our children. Confine Bulgaria-Turchia, blindato. Macedonia-Grecia, blindato. Ungheria-Serbia, blindato. Chiuso il confine Slovenia-Croazia. Chiuso il valico Slovenia-Austria. In Norvegia non si entra più. In Svezia non si passa. La Danimarca ha chiuso. La Germania aumenta i controlli. L'Austria vuole chiudere la frontiera con l'Italia. Tobias Piller, corrispondente della Frankfurter Allgemeine, buongiorno. Buongiorno. Allora, nell'agosto del 2015, quando Angela Merkel decise di accogliere tutti i siriani che scappavano dalla guerra, l'Europa sembrò trovare un nuovo spirito. Alla stazione di Monaco partiva l'inno della gioia. 8 mesi dopo, la Germania ha accolto da sola 1 milione di profughi. Però quello spirito, l'abbiamo sentito nella nostra introduzione, adesso è svanito. Cosa è successo? Certamente in Germania prima cercavano di essere molto bonisti, se mi passate la parola. Visto anche la storia della Germania, tanti dicevano non possiamo essere i cattivi della situazione. Dopo aver avuto tanti arrivi, fino a 6.000 al giorno, dopo aver fatto di tutto per anche distribuire questi rifugiati in tutta Germania e avere sempre pronto 10 treni alla confine dell'Austria e 200 pullman per distribuire subito gli arrivati, certamente gli stessi volontari che si sacrificano ogni giorno per aiutare a quelli arrivati dicevano non possiamo avere un altro 1 milione di arrivi nel 2016, non c'è nessuna strada. E quindi, poi dall'altro lato c'è stato questa destra, c'è stato l'elettorato che diceva che generalmente chi ha detto non basta, basta. Chi ha detto basta. Ecco, adesso abbiamo addirittura, però, siamo passati all'estremo opposto, abbiamo l'Austria che alza barriere alla frontiera del Brennero. Ecco, ma davvero gli austriaci sono xenofobi? Se vediamo i numeri ufficiali dell'Eurostat che sono registrati quanti hanno chiesto asilo fine 2015 sono 80.000 persone. Se vediamo che l'Austria è solo un settimo della popolazione dell'Italia, certamente sarebbe come in Italia ci fossero più di 500.000. Certo. Non vedrei che fosse un popolo xenofobo. Quindi l'Austria che chiede addirittura però di effettuare i controlli anti-immigrazione in Italia. Renzi parla di violazione sfacciata delle regole. Fammi finire la domanda. Questo mi sembra un po' esagerato. Certamente ci sono due possibilità. I poliziotti austriaci salgono sul treno a Vipiteno e fino al Brennero hanno effettuato il controllo, o altrimenti si ferma il treno al Brennero ma non è un controllo di mezz'ora. Sì. Piller, però non è un problema di rapporti solo tra l'Italia e l'Austria. Abbiamo sentito nell'introduzione le situazioni drammatiche di tensione sono dappertutto oramai. Ecco, non è tutta l'Unione Europea che è oramai così? Ci sono paesi che veramente hanno poche richieste di asilo e hanno mandato via tutti, e ci sono quelli che hanno tanti, come anche la Svezia, con 150.000 così, e ancora molto di più dell'Austria. Certo, permettete che ci sono anche i sassolini nelle scarpe e le storie sull'Italia. Poi dopo togliamo i sassolini sulle scarpe. la gente sul Brennero, allora gli austriaci dicono, allora se vogliamo avere una politica comune, certamente non può essere che arrivano tutti in Grecia e in Italia e quelli italiani greci dicono arrivi chi vuole e poi tanto vanno mandati verso nord. Senti Pille, la Germania e l'Austria sono dei paesi diversi, però hanno una lunga storia comune fatta anche di momenti tragici. Una vittoria della destra estrema in Austria può peggiorare i rapporti tra Vienna e Berlino? Assolutamente sì. Ma che cosa non ha funzionato, secondo te, nel piano della Merkel di cui abbiamo parlato all'inizio, che era un piano che sembrava dare una prospettiva all'Europa? Ma la Merkel, mi sembra che a breve ha cercato di essere super pragmatica e di così assoldare i turchi come il poliziotto di frontiera dell'Europa. Sì. E dall'altro certamente prendendo direttamente rifugiati dalla Turchia, almeno quelli siriani, quelli dalla guerra, dicendo così che non ha senso pagare soldi ai trafficanti, invece casomai vi prendiamo direttamente. E questo è un'altra parte del ragionamento che ha fatto la Merkel, però... Noi abbiamo un po' l'impressione che la Germania, correggimi se sbaglio, stia pensando di riprendere in mano il progetto di un'Europa più piccola, con un gruppo di paesi di testa e gli altri di serie B. Insomma, l'Europa a due velocità, che poi è una vecchia idea di Schäuble, è così? Non lo vedo solo nella retorica italiana, certamente cresce anche la voce di chi vuole lasciare l'euro e questo dopo le delusioni ha avuto con l'euro, sì. Ecco, però le uscite del capo della Bundesbank, Wendman, sui conti un po' lasciano pensare che il progetto della piccola Europa in realtà potrebbe diventare una realtà. Perché Wendman lancia queste accuse così dure a Draghi e all'Italia? E Wendman in quel senso ha ripetuto più o meno quello che era il consenso sull'euro negli anni 90, quando in Italia dicevano l'Italia non andrà avanti sulla vecchia strada, più debito, che tanto abbiamo visto che non funziona, e era questo il consenso. Se adesso c'è un grande abisso tra l'Italia e la Germania, vuol dire che per l'euro le carte sul tavolo sono cambiate e i tedeschi dicono ma non era questo l'euro. E quindi diciamo che l'ipotesi di un gruppo di Europa di testa e un gruppo di Europa di serie B in realtà è sul tavolo della Germania. No, non vedo nessuno che ci parla. Certamente la storia brutta in Germania è quella che sulle delusioni dell'euro, le promesse non mantenute sull'euro, hanno prima creato un partito anti-euro di persone molto rispettabili, i quali poi hanno fatto entrare la persona anche un po' di destra, ma non troppo, e poi sono stati cacciati via, e questo movimento Alternative für Deutschland è diventato un partito veramente di destra, che è sempre più di destra e va verso essere un partito molto nazionalista. Ecco, ma questo con la Merkel ha un effetto abbastanza drammatico, però. Sì, il brutto è che senza questo inizio sull'euro, certamente i tedeschi non avrebbero mai votato il partito veramente che aveva il nazionalismo nel nome. Adesso con la storia dell'euro ha portato sulla scena un partito che sembra rispettabile anche se non lo è. E quindi per smontare questa deriva nazionalista, la Germania pensa a un'altra Europa, a un altro euro, oppure a nessun euro? Non sento nessuno parlare del governo che bisogna parlare di un'altra Europa, ma leggo molti, molti commenti in internet che dicono questo, sì. Grazie Tomias Piller, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. l'SMS se avete le vostre opinioni, telefonate, scriveteci 914-44. Mario, l'Austria che mette una rete metallica comunque di 250 metri al confine con l'Italia, sembra una cronaca di un secolo scorso, invece è oggi. Renzi cosa dovrebbe fare? Certo, i numeri in qualche modo spiegano, i numeri dell'Eurostat di cui faceva riferimento Pillar, sono numeri che al di là delle retoriche dicono delle cose che possono in qualche modo spiegare quello che capita. Sì, solo che c'è un'obiezione che taglia la testa al toro, secondo me, che in Austria non c'è il mare, è tutto lì il discorso, quindi noi siamo la prima frontiera, è vero che abbiamo anche problemi di gestione, diciamo, dei flussi di arrivi e così via, ma abbiamo migliorato tantissimo rispetto a quando eravamo in piena emergenza. Secondo me Renzi, se l'Austria continua su questa linea, deve ricorrere alle maniere forti nell'Unione Europea. C'è tutto un problema di sovranità, di lealtà, di cooperazione. Insomma, non è che l'Austria può fare quel che vuole al confine con l'Italia, e il paragone più efficace secondo me è quello del vicino che ti alza un muro di fronte a casa e non ti dice niente. Sì, chiunque certo. Si arrabbia, no? Ma i numeri sono numeri abbastanza. L'Austria ha avuto 80.000 richieste di asilo, sì. Con una popolazione dell'Italia che è 7 volte quella dell'Austria. Non ci sono, e hanno 80.000 lo stesso. No, non ci sono dubbi, infatti questo è un problema, no, di per stare ai numeri veri, perché sennò sì. Per ma uscire noi non dalle vogliono demagogie restare. Ecco. Per noi gli immigrati non vogliono restare, certo, la demagogia che dice che siamo pieni di immigrati rispetto agli altri paesi, noi ne abbiamo pochissimi, noi siamo un paese di approdo, di passaggio. Esatto. Approdo e passaggio, approdo e passaggio, punto, questo è chiarissimo. Ecco, ciò noi, che noi... non va bene, scusa Giovanni, no, è, è che questa cosa va regolata meglio in sede, certo, europea, quindi Renzi dubbio, secondo me fa dubbio. Bene a protestare su, ecco, questo. Noi vorremmo sapere cosa ne pensate della chiusura delle frontiere, se è la fine dell'Europa e perché i migranti fanno così paura. Abbiamo anche dimenticato quando eravamo noi a emigrare, ecco questa, se magari. Avete delle risposte, se avete voglia di entrare nella discussione, naturalmente ci fa piacere. Pietrangelo, c'è qualcosa di inquietante però in tutto questo, tu l'Europa non la ami come costruzione di governo, ma non credo che approvi la decisione di Vienna. Però poi c'è il punto di realtà, Giovanni. I numeri veri, quelli che tu prima sì. hai elencato, danno ragione all'Austria, nel senso che l'Austria non ha la possibilità di gestire un numero così importante, tant'è vero che il confronto con l'Italia è impari. E questo è vero, però l'Unione, la scelta unilaterale è una scelta che rompe qualunque tipo di solidarietà. Rompe qualunque tipo di illusione, che è quello di poter avere un'Europa in grado di gestire una crisi e una catastrofe di questi termini, sì. in questi termini. Rompe l'illusione e soprattutto afferma, e lo afferma la piccola Austria rispetto a quello che dovrebbe fare l'Italia, il principio di sovranità. Senti Mario, nel frattempo però, ne parlava anche Pillar, gli accordi sì. con la Grecia e la Turchia, insomma, funzionano o non funzionano? Funzionano. Funzionano. Assolutamente. Gli sbarchi rispetto al 2015 stanno diminuendo in maniera drastica. Cioè io ero uno scettico sull'accordo con la Turchia, prendiamoci chiaro, così leviamo, sgombriamo ogni dubbio, però funzionano, vi dico, sono numeri importanti, ad aprile 2016 2015 gli sbarchi erano 29.864 e sono diventati 12.000, cioè, ma vi rendete conto di che cosa sta succedendo? Metà. E la Turchia, quell'accordo sta funzionando. Poi vediamo adesso d'estate. Sì. Questo sarà la variante definitiva. Perché quello è il vero test. Però finora le cose stanno funzionando. Certo, dal punto di vista umanitario, se tu mi chiedi che cosa sei soddisfatto, io ti dico no. Certo. No. Ecco, dal punto di vista umanitario, del problema umanitario, ne parliamo con Alessandra Morelli dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati. Dottoressa Morelli, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, la situazione di molti campi di accoglienza in realtà è a dir poco difficile. Lei si è occupata della crisi dei rifugiati in Grecia. Qual è adesso la situazione? Sì, buongiorno e grazie per questa opportunità. Ho gestito la prima fase dell'emergenza quando appunto avevamo dagli 8-9 mila arrivi al giorno particolarmente sull'isola di Lesbos, accolto ovviamente la Grecia impreparata a questo fenomeno, un fenomeno che vede per la prima volta rifugiati arrivare a casa nostra. Quindi lei parlava del concetto della paura, no? Sì. Il fatto di non conoscere chi stiamo accogliendo, quindi non conoscendo l'altro non è scattata la solidarietà, perché la solidarietà scatta quando c'è l'empatia, ma scatta quando c'è il desiderio della conoscenza dell'altro, ecco, capire da dove fuggono, certo, e perché fuggono. Quindi la Grecia oggi ha ragione, Secchi, la persona che ha parlato prima, Secchi, Mario Secchi, sì, sono diminuiti, ma pur mantenendo la problematica sulla terraferma di quasi 50.000 persone sulla terraferma, particolarmente 10.000 ancora in domeni, che cercano ancora una soluzione che tarda ad arrivare. Senta, però pochi giorni fa a Lesbo, nel centro di identificazione di Moria, sono scoppiati incidenti nel settore dei minori, qualcuno ha anche cercato di forzare la recinzione. La visita del Papa non è servita a niente, insomma. Ma diciamo, la visita simbolo del Papa è stato un grandissimo gesto, e noi come Alto Commissariato lo riconosciamo, un grandissimo gesto di appunto solidarietà e di richiesta di ricerca di soluzioni. Guardi Minoli, il problema che stiamo affrontando oggi è globale, non è solamente rivolto all'Europa. Non c'è dubbio. E potrei dire che ci sono più rifugiati e meno soluzioni. Quindi quando io affermo e dico che ci sono più rifugiati, 60 milioni di rifugiati e meno soluzioni, ciò ti fa capire qual è la temperatura del mondo. Sì. Siamo in un'epoca in cui trovare soluzioni è difficile. Ma le procedure, ecco, ma per esempio le procedure di identificazione, no? Per cominciare a parlare di problemi concreti, ma da cui si parte per superare anche quella paura di cui parla lei. Sì. Le procedure di identificazione adesso funzionano? Le procedure di identificazione in Grecia hanno migliorato anche attraverso, diciamo così, finalmente, diciamo, l'identificazione di dove mettere gli hotspot. Certo, non siamo stati d'accordo con questi hotspot chiusi, con questi hotspot che hanno, certo, creato de facto dei ghetti, sì, di detenzione, a tal punto che noi come Alto Commissariato, come sa, non siamo voluti essere. Ecco, però io le faccio una domanda, dottoressa Morelli, sempre per restare sul concreto, che cosa succede ai migranti una volta che vengono identificati? Abbiamo detto le procedure di identificazione stanno migliorando in qualche modo la situazione, poi cosa succede quando sono identificati? Una volta identificati vengono trasferiti lentamente sulla terraferma, quindi nella zona di Attica, nella zona di Atene e nella zona del nord, quindi da Salonicco alla piccola cittadina centro del mondo, Policastro. Ecco. Ecco, vengono trasferiti in queste zone in attesa del famoso programma di ricollocamento. Ma il programma di ricollocamento, quindi trasferimento a secondo delle quote europee, è lentissimo. Sono partite solamente 860 persone. È questo l'errore dell'Europa, secondo lei? La lentezza dei processi? Affermativo, questo indubbiamente penalizza, ma penalizza anche un altro fatto. Ricordiamoci che in Grecia sono passate 1 milione di persone. Esatto. All'interno di questa grande marcia, all'interno di questo milione di persone, il 49% siriani, il 26% afghani, il 16% iracheni. Che cosa ci dicono queste statistiche? Che io parlo di statistiche, ma amo parlare di storie e di vite, certo, umane. Sono persone. Sono paesi ancora in guerra, dove si combatte il terrorismo, sì, dove il terrorismo è la Somalia, è l'Afghanistan, però, dove 31 regioni su 34 sono in mano sono ai in, talibani. Sono in guerra, ecco. Regioni ancora, ancora in guerra. Sì. In guerra attiva, attenzione, non in guerra contro il terrorismo, sì, ancora più grave, perché il terrorismo, non essendoci, essendo una guerra asimmetrica, va a colpire e a intimidire una popolazione civile che si ritrova al mercato a fare la spesa e a perdere un membro della famiglia. Ecco, senta, dottoressa Morelli, diciamo, dopo l'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia, abbiamo detto prima, i numeri dicono che c'è stata una drastica diminuzione degli arrivi in Europa. È vero, lei lo conferma? Confermo. Quindi, attraverso le nostre statistiche, che gli arrivi in Grecia sono diminuiti. Noi abbiamo avuto da gennaio a maggio del 2016 in Grecia 155.000 persone, solo nel mese di maggio, quindi questi primi 5-6 giorni di maggio, prima settimana di maggio solo 123 persone, se lo paragoniamo all'anno scorso dove mi sono trovata veramente in mezzo a numeri altissimi. Confermo che, ecco, che ma le, questo che accordo, questo accordo, abbiamo detto, l'accordo con la Turchia ha ridotto, in qualche modo funziona perché ha ridotto i numeri. Ma questo accordo, oltre ai numeri, rispetta i diritti umani oppure no? Guardi, sono molto scettica e sono molto preoccupata, diciamo, per questo accordo, lo è anche l'alto commissario in generale. Perché? Perché prevede anche, diciamo così, un aspetto di ritorni, no? Generalizzati, e questo qui preoccupa. Ora, per il momento non c'è stata ancora la seconda, diciamo, partenza, c'è stata solo una partenza alcuni mesi fa. Non ci sono state altre partenze dalla Grecia verso la Turchia. Ovvio, considerare la Turchia un paese sicuro d'asilo, c'è da discutere. C'è da discutere. Ecco, se questo flusso però in qualche modo si sta fermando, perché almeno da barriera all'entrata sta funzionando, ecco, perché secondo lei gli austriaci alzano adesso una barriera al confine? E qui torniamo al discorso un po' che ho seguito all'inizio della sua trasmissione, anche lo spot che ha mandato, no? Sì. E qui un milione di persone che fuggono dalle guerre, che sono entrate sul territorio europeo, hanno messo in crisi il territorio europeo, lo hanno messo in crisi perché? Probabilmente perché non eravamo fondati sui principi e i valori della solidarietà, della coesione, della collegialità, che fa scattare, diciamo così, molle di unioni a livello, diciamo così, diverso, di sistema di valori diverso, ma solamente a livello, ecco, economico e finanziario. Senta Morelli, il Pulitzer del 2016 per la sezione fotografia delle breaking news è andata alla Reuters e al New York Times proprio per gli scatti che raccontano la drammatica crisi dei migranti in Europa, quindi hanno avuto loro il Pulitzer. Però poi nei fatti è la paura che vince sulla pietà, diciamo, in qualche modo la paura, come diceva lei, la paura dell'ignoto, del sapere chi non sapere chi è l'altro. È così? Della diversità, certamente della diversità, di non sapere chi è l'altro e di vedere nell'altro una persona che viene a sradicare te. Senta. E mentre non ci accorgiamo che è lui che è stato sradicato, lei è stata sradicata. Nella grande marcia e nell'esodo e nella situazione in cui io mi sono trovata in Grecia, guardi, il 40% erano bambini, ed il 22% donne, il 38% uomini, quindi anche questa stigmatizzazione, certo, che il rifugiato è l'uomo singolo, è l'uomo nero che viene a rubarti il lavoro, che viene a ma bambini che vengono da soli? No, all'interno con la mamma. No, sono bambini con le loro famiglie, quindi questo stereotipo che il rifugiato è il singolo, è l'uomo singolo che viene, quindi associato anche a tutta la discussione della sicurezza, eccetera, e in Grecia negli ultimi mesi non è vero, sono più non famiglie, è vero. Assolutamente no. Non è, ecco. Assolutamente. Senta, no. Un'ultimissima cosa, dottoressa, lei cosa consiglierebbe di fare come prima cosa adesso, allo stato degli atti in cui vediamo che i flussi in qualche modo stanno riducendosi, che il rapporto con la Turchia, per quanto in modo complesso e problematico, comincia a funzionare? Che cosa dovrebbe fare il governo? Ma guardi, questo è un momento, bisogna approfittare di questo momento, diciamo così, di maggiore tranquillità per rivedersi, per avere rivedere tutte le buone pratiche e rimettere in questione un po' tutta quella che è la capacità pragmatica di gestione davanti a fenomeni del genere, perché il mondo non si sta equilibrando, ci sono focolai di guerra ovunque. Vabbè, questo è chiaro, d'accordo. Quindi riflettere molto su quello che sono risposte straordinarie a situazioni straordinarie. Quindi, le vie legali che devono essere favorite, le ricollocazioni, corridoi umanitari e chapeau veramente all'iniziativa di Sant'Egidio. Sappiamo che anche ieri sono arrivati in Italia attraverso il corridoio umanitario famiglie. Va bene, d'accordo. Sponsorizzazioni private, ricongiungimenti familiari, ecco, questi va sono bene. Tutti atti di grande solidarietà. Grazie dottoressa. La gestione pragmatica delle fatti. Grazie dottoressa Morelli. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. Stefano da Tivoli. Stefano, buongiorno. Stefano, buongiorno, dica. Sì, mi sente? Dica. Buongiorno, sì. Sono Stefano da Treviso. Treviso, scusi. Proprio una zona un po' diversa dell'Italia, un po' più a nord. Certo. Più vicino al confine con l'Austria, diciamo. Allora io premetto, sono nato in una famiglia di europeisti convinti dalla, sì. Io mi raccontava dalla comunità economica. Sì, no, mi dica perché il tempo è stretto. Allora, io dico questo, in un'Europa nella quale mettono reti da una parte o dall'altra è difficile riconoscersi avendo una formazione di questo genere. Dico anche che io, lo dicevo al collega, ogni anno faccio due settimane di vacanza, facevo due settimane di vacanza in Austria. Non le fa più? Non le fa più. Da quest'anno non le farò più. Va bene, ho capito. Perché certo. Io ci posso passare. Ripaga della stessa moneta. Ecco, questi respingimenti in qualche modo si può dire funzionano per le campagne elettorali, forse, anzi sicuramente, però non sono la soluzione del problema, perché non sono una soluzione al problema di fondo che è quello della paura. E la paura è la maionese che in assoluto impazzisce nella ricerca del consenso. E la ricerca del consenso tutto vuole tranne che dare delle soluzioni. L'ignoranza è il fondamento dell'attuale stagione politica. Ecco Mario, tu che dici? Ma se abbiamo il tempo chiudo con una cosa... Certo. Diversa. Fallo. All'ufficio immigrazione degli Stati Uniti Albert Einstein chiesero di che razza è lei e lui rispose: una razza umana. Allora al posto di una canzone ti propongo un frammento che Pietrangelo apprezzerà, di un film intitolato Nuovo Mondo di Emanuele Crialese del 2006. È la storia dell'immigrazione dei siciliani a Ellis Island. Senti qua. Che giorno è oggi? Capisci quello che parlo? E chi rispondeva così? Come ti chiami? Mancuso Salvatore. Da dove vieni? Petralia, a Suttano. Quanti anni? 37. 37. Allora, lei è in mezzo al mare, in una piccola barca. C'è una grande tempesta. Nella barca con lei ci sono due sacchi. Uno è un sacco pieno di pane e l'altro è un sacco pieno di oro. Tu ti devi salvare. Quale sacco butti? Ma perché attirare questi sacchi? Cazzo, getto l'oro, un pozzettare l'oro. Un pane un mangio. Ma un ghetto niente. Né, un ghetto niente. Nothing. 800 24 00 24, numero verde, molto bello. Eravamo noi italiani. Appunto, 349 238 6666. L'SMS dopo la pubblicità, andremo avanti con le telefonate. Mix 24. Ecco, ancora in diretta, 9:37, 14 secondi. Luigi da Padova. Luigi, sì, buongiorno. Buongiorno, dica. Buongiorno. Volevo fare questa osservazione. Spesso si fanno dei confronti, dei paragoni con le immigrazioni degli italiani all'estero. Ecco, senza con questo trascurare o sottovalutare la drammaticità di quei viaggi, di quei momenti, di quelle storie. Però allora c'erano delle navi che partivano, famiglie che avevano spesso un contratto o dei luoghi che venivano richiesti. Poi avevano dei punti di ricevimento nei luoghi dove si recavano e sembra che allora un mondo non globalizzato come il nostro, meno strutturato, meno governato anche da organismi sovranazionali, l'impressione era, quello che ho letto anche, che le cose funzionassero meglio. Quindi lei dice, Luigi, lei dice, insomma, se ci rifacessimo a quei modelli sarebbe un po' meglio, ma la velocità con la quale il mondo globalizzato però produce gli eventi naturalmente permette anche meno riflessioni e meno organizzazioni, credo che anche questo incida. Di Pietrangelo? No, poi volevo dire una cosa, che comunque quell'epoca era l'epoca in cui c'era un continente da riempire, l'America. Certo. Adesso c'è invece un'Europa svuotata, distrutta, in piena catastrofe, sono bombe migratorie a tutti gli effetti. Ecco, la Morda Trento, buongiorno. Buongiorno. Dica. Comunque volevo dire un poche parole, che il problema è praticamente... Lei di dov'è? Sono tunisino, ho passato anch'io la primavera. Sì, dica. Comunque, tutti questi rifugiati hanno bisogno di la vera democrazia per cambiare le carte, invece di finanziare, fare per esempio, dare due soldi, due quattrini alla Turchia per bloccare le frontiere o quelle della... Io capisco il mondo europeo che si è preoccupato perché il lavoro già poco in sé. Io ne ho un'azienda qua, avevo 27 dipendenti, poi ridotto a 15. E perché? Che cosa non funziona? Ad esempio vai alle banche, sei in difficoltà, io posso capire, però se veramente c'è e danno la vera democrazia dove parlano ogni giorno e togliono questi dittatori che comandano il mondo che arabo, cosa bisognerebbe fare più, secondo lei? Non esiste più questi ISIS che sono veramente una forma preparata di questi, diciamo, che hanno grossi interessi nel mondo arabo. Sì, ma allora? Lei dice che bisognerebbe aiutare i paesi a casa loro? Bisogna aiutare le genti nei loro paesi e darle una vera libertà, una vera democrazia, ma non una democrazia fittizia. Ti dico io per prima, ne ho un'azienda, se l'indomani nel mio paese, che la Tunisia, che è rientrata una nuova forma di dittatura molto, diciamo, disegnata, e rientro da domani, mollo tutte, ho di proprietà in Italia, dico spesso grazie all'Italia. Cioè lei dice io tornerei a casa mia, se ci fossero le condizioni strutturali. Grazie, ecco qui Europa dei banchieri, Dario da Modena dice Europa dei banchieri, non Europa dei popoli. Questo è un po' il tema, un pochino il tema di fondo. E intanto Pietrangelo, oggi che ci fai sentire? Allora, questo tira sul morale. Eh no, sono gli amori dai quali ci si lascia trasportare, sono gli amori gracili, morenti, che non sono giorni, notti, ma istanti senza colori, senza struggimenti, senza sfinimenti, eppure affamati, gli istanti insaziabili. E così oggi in metropolitana si parlavano Goethe e Charlotte. Ha chiamato quest'ultima, ha voluto questo brano con una dedica. Terrò io tutti i biglietti e tu, Wolfgang, avrai le ricevute. Mario, allora tu... No, io sto pensando a Charlotte. Partiamo con i Genesis. Partenza stamattina, va bene. E Giovanni, ma tu sei favorevole all'allungamento della prescrizione, arrestare tutti, com'è sta storia? Perché io ti dico la verità, per me il cittadino deve avere tempi certi del processo, non stare agganciato come un che è quello che dice Renzi sostanzialmente. Non lo so se lo dice lui. Io sì, ma bisogna rileggere. Questo lo dico io. Va bene, ok, dice anche lui. Vabbè, allora vuol dire che siamo d'accordo per una volta. Va bene, non è grave. Dipende. Ma insomma, non lo so. Io ho molti dubbi. Ti dico la verità sulla riforma della prescrizione. Carlo Nordio, che è un magistrato di cui io stimo, dice che è una follia allungare tutti i tempi. Però mi interessa capire tu cosa ne pensi, Pietrangelo. Io penso una cosa semplice, penso che l'obbligatorietà dell'azione penale deve essere riformata insieme all'allungamento della prescrizione, perché è di lì che nasce il problema, secondo me. Se si marcia su tutti e due i fronti, forse si trova un punto di compromesso a favore della giustizia e degli imputati della certezza del diritto. Pietrangelo, io posso soltanto aggiungere le virgolette a quanto ha detto Giovanni e sottoscrivere. No, poi un'altra cosa che volevo sottolineare: adesso hanno arrestato il sindaco di Lodi, lasciamo perdere vedremo come va, ed è giusto che venga perseguito se ha commesso i reati, però fare il sindaco oggi, cioè, non è proprio una roba. In Italia ci sono 8.000 comuni, oltre 400.000 dipendenti, una selva di norme, un amministratore pubblico insomma rischia tutti i giorni di finire sotto inchiesta, anche se respira. E insomma, la voce del popolo oggi è quella che questi amministratori quasi debbono essere ghigliottinati. Sì. Ora, io invito alla calma, cioè per me la giustizia va applicata, per carità, ma invito alla calma. Dal 92 ad oggi noi abbiamo pagato 630 milioni di euro di risarcimenti per indennizzare 25.000 vittime di ingiusta detenzione. Stiamo attenti, perché a rovinare la vita della gente ci vuole un secondo. È un attimo, ma soprattutto è un attimo se il giudizio, come sempre, lo diciamo sempre ma lo ripetiamo, è fatto sui giornali e non nei tribunali. Questo è il punto di vera distruzione delle persone. Sono assolutamente d'accordo. Salamino. Se Zarathustra piange, manco si può dire che Bella Vista rida. Diogene cerca l'uomo con l'ubicino, Totò cerca casa e l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici a Napoli, un'istituzione voluta dall'Accademia dei Lincei nel 1975, una collezione, parliamo di una collezione di 300.000 volumi, si ritrova sfrattato. La nobilissima biblioteca, da anni ormai senza più fondi pubblici, lascia la sede storica. Il Palazzo Ducale di Serra di Cassano, sulla collina di Pizzo Falcone, parliamo del quartiere San Ferdinando, ed è giusto l'angolo, a proposito di Goethe, giusto l'angolo da dove lui rimirò Napoli e dunque il mondo. Insomma, sono stati fino a oggi 27.000 gli ospiti arrivati, insomma tutto questo chiude, e perciò filosofi, matematici, scienziati, artisti, quelli che per 40 anni di attività si sono presentati alle porte di questo palazzo, in questo palazzo dove si sono avute 15.000 lezioni magistrali, se poi convegni e dialoghi e tante nuove scuole che sono gemmate da questo ceppo originato, ricordate da dove? Dalla sala Giambattista Vico nella biblioteca di Girolamini. Insomma, oggi questa nostra Heidelberg chiude. Chiude quella che fu la culla di Hans-Georg Gadamer e casa dunque dell'avvocato di Viale, ovvero l'avvocato Marotta, chiamato a suo tempo per questo lavoro da Elena Croce. Lui, oggi ultra ottantenne combattente, è stato lasciato solo nella città a difendere l'istituto, ha venduto tutto, ha debiti con tutti, ricorda lui, perfino col salumiere, ed è la storia dolcissima e terribile di chi, avendo costruito la propria luminosa avventura nella mare, perdutamente la filosofia, si trova a essere ultimo soldato della sapienza, condotto allo sfratto dall'ossessione per la conoscenza, del sapere, della verità, come Diogene che cerca il lumicino in quella città che la filosofia Appunto, da Vico a Bellavista l'ha sempre tenuta in vena. Ascoltiamo. Allora adesso io vi dico che cosa diceva il filosofo Protagora. Ah, il famoso Protagora. Quello del teorema, professore. No, teorema e Protagora. Quello è Pitagora, un'altra cosa. Quello è Pitagora, questo è Protagora di Abdera. Abdera. Di Abdera. Diceva Protagora di Abdera. L'uomo è la misura di tutte le cose. Di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono. Signor Poche Bicarbonato. Esattamente. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Me lo ricordo perché avevo molta paura. Molta paura, sono andato dietro a un giocatore, io ero più giovane di tutti, eh. Ed eravamo riusciti a scappare tutti nei rifugi, eh. Ma avevamo chi senza scarpe, chi senza... Noi abbiamo affrontato le partite sempre a disagio. Li potremmo chiamare i calciatori di guerra. È la primavera del 44, l'Italia è divisa in due, al sud gli alleati, al nord i nazisti e Salò. Eppure si gioca al calcio e si gioca una stagione molto speciale. Un campionato nazionale misto con squadre di Serie A, B e C che si sfidano in gironi regionali. A Milano la finalissima, a vincere sono i vigili del fuoco dello Spezia e con loro la passione, il coraggio, l'incoscienza. Spalti di guerra, un incredibile campionato di calcio sotto le bombe degli alleati e i rastrellamenti nazisti. I protagonisti di quei giorni, le interviste inedite, i segreti mai rivelati qui a Mix 24, i gialli della storia dopo il giornale radio. Ecco, un incredibile campionato sotto le bombe nell'Italia divisa, davvero la potenza dello sport. La potenza dello sport, la potenza del calcio, la fantasia del calcio e la grande lezione che viene anche da Ranieri, diciamolo. Ranieri che dimostra che con una squadretta sconosciuta vince e batte i miliardari sceicchi, i miliardari proprietari del campionato inglese, e lo batte da persona anziana. Non è mai tardi per vincere. Mi dispiace per i rottamatori professionisti. Com'è andata, Mario? Io dico che hai ragione, hai tanto ragione, che voglio dire, Ferdinand Porsche fondò la Porsche a 56 anni, la Kawasaki fu fondata dall'omonimo imprenditore a 59 anni, potrei continuare all'infinito. Ti posso dire, Amedeo Giannini fondò la Bank of America a 60 anni, sì. Charles Flint fondò la IBM a 61 anni, Ennio Morricone ha vinto l'Oscar a 87 anni, non è mai troppo tardi. Il talento non ha età, se d'accordo, Pietrangelo. Do appuntamento a tutti al referendum, così ci togliamo di torno il rottamatore. No. Mamma mia, non puoi, no. Subito. C'è ancora una bolla, Mario? Sì, vai. Missy Elliott, Pharrell Williams, sbaglio, no? Confermano. E no, più che altro faccio una domanda ancora. Oggi siamo in fase di discussione acuta, ma mi va bene. Marconi ha preso il Nobel a 34 anni, però. No, vabbè, per riequilibrare un po'. Ho capito. Che c'entra? Anche quel tempo c'era un certo personaggio. Anche Rimbaud a 18 anni. Che non lo voleva, l'ha scoperto tardi. Guarda, faccio il buttafuoco certo della situazione. Anche Rimbaud a 18 anni aveva scritto tutto. Però, Quindi ritorniamo a dire che il talento non ha età. No, e quindi in è possibile. Su, in giù. E quindi è possibile per tutti, anche non sentitevi perduti, insomma, che ce n'è. No, io mi chiedevo se The Donald a questo punto vincerà le elezioni americane. La vittoria in Indiana e il ritiro di Cruz hanno fatto tramontare definitivamente tutti i sogni di cui abbiamo letto ampiamente sulla stampa radical chic italiana, di fermare, di alzare la diga contro Trump. Trump ha vinto. E vabbè, stamattina c'era una cosa sul Financial Times abbastanza divertente, forse vera, non lo so, si può discutere su questo, e cioè che per la prima volta nella storia moderna, diciamo, delle campagne presidenziali ci sarà un candidato contro la globalizzazione e il libero mercato. Non è proprio così. Cioè? Ma insomma, c'è una critica molto forte. In realtà Trump è vero, è un isolazionista, è un protezionista, è uno da hard talk, no? Da discorso molto duro. però potrebbe essere anche una sorpresa. Io penso che Trump, quando e se avrà la nomination, cambierà i suoi discorsi. Penso anch'io. Un'evoluzione, in ogni caso rappresenta qualcosa un po' alla Berlusconi prima maniera, secondo me, nella realtà americana di oggi, che è abbastanza cristallizzata. Hai sentito il discorso di Obama di addio ai giornalisti? Ti ha convinto a te. No, ma è divertente. Mi sembra che abbia preso in giro la Clinton un po' più del necessario. Nel Partito Democratico mi sembra che ci siano delle tensioni molto forti. Non so se Pietrangelo è trumpista o no. Sei trumpista? Eh? Sì, trumpista. Trumpista. Mettiamola così. Necessità di salvaguardare gli interessi della nostra patria, e quando dico patria immagino l'Europa dei popoli, e immagino anche questo grande continente che ha necessità di ritornare nella storia. E se l'America, gli Stati Uniti d'America con Trump se ne staranno lì nel cantuccio loro, lontano, mi sta benissimo. E vorrei ricordare che quelli che hanno fatto le guerre sono stati sempre i democratici. E per finire sentiamo Gloria Guerrera che cosa ci ha dedicato. Oggi una canzone per chi esagera con le parole e scorda che l'amore ha sempre ragione. Giuliano Parma, Se ne dicon di parole. Se ne dicon di parole, non puoi neanche immaginare. Sono una pubblicità, cartoline di città. Se ne dicon di parole, tante che ne puoi buttare. Figlie dell'aridità, sono lacrime a metà.